solo così dove che ci può fare. E ci siamo qua, ci rompiamo noi e adesso posso andare qua di nuovo. Dio, se quello non ci rompiamo ci possiamo anche distrarre. Infatti. Appunto, è proprio così. Dipende da come si spacca. Tipo, parliamo del cuore, se si rompe o il fegato, sono creativo. Ah, è quello sì. Lui il resto è tutto, il resto del corpo già l'hai visto dal giornale come gli hanno messo le braccia, le mani di una trama del frutta, l'hai visto? E adesso c'è le articolazioni anche lì. Ho visto, mancano le mani e le gambe, ma i piedi K. E adesso se ti va bene l'intervento, è normale. Speriamo che Dio lo aiuti, poveraccia. Speriamo che lo aiuti. Non faccio niente di una. Come ci vuoi qua? Mi sa che io vado a mangiare qualcosa. Ma tu mi riportate ciò stavolta. Ehi, siamo bene. Vai a mangiare, Luca, le scappate, vai a mangiare. Non ci sono problemi. Mangia poco però. Io quanti giorni di fame qualche, sempre. Prima di sempre ma da mangiare. Ma così c'è sempre. Sono buonanotte, mamma mia. Molte volte è capitato al punto di stare anche alle 2, 3. E poi la mamma ti viene fame, sai. Ma qualcosa c'è sempre qua, dai. Campana. Sto uscendo, sì. Auguria. Carissimo, buonasera. Ciao Sandro, buonasera. Ciao Sandro, buonasera, ben entrato. Allora, che si dice? Nebbia in Valpadana. Che si dice? Oggi pomeriggio ho preso una scossa, l'ho buttato tutto giù, la cugina sono riuscito a recuperare, però non mi parla. Ma perché non ti torno? Ho capito, stai uscendo benissimo. Sei 9 più 20, la radio è 5, perfetta, perché non ti deve tornare? Cos'è che non ti torna? Ho letto il tuo messaggio. Messaggio, non capisco dove le trovi queste occasioni. Allora, diciamo che mi ha chiamato un carissimo amico di Torino. Se tu hai letto l'ultima email, dammi conferma se hai letto l'ultima email. Non letta me. Quindi lui diciamo che questo qui. Diciamo, cioè le tre minuti fa e cosa non fa, il mio capo diciamo, e quindi ho sempre la ricerca, sempre in mezzo, perché è un appassionato e così, e quindi oggi mi ha chiamato, dice guarda che c'è tutta occasione, così. E prende munizione, non buona munizione, si può prendere, bisogna vedere se funziona. Capito, bisogna vedere se funziona, sa. Però il prezzo è buono, ottimo, perché in radio sai quante me ne danno a vedere, a provare, poi vai a provare e sono uscito. Non rispondono alle mie esigenze, capito? E quindi non va bene. Se quello funziona, ti ripeto, il prezzo è ottimo, va benissimo. Sarà interessato, perché c'è problema, sei fortissimo, fortissimo alla grande, arrivi molto molto forte con la mano. Quindi non ti preoccupare, stai andando bene, bene, bene, bene. Avanti, Fokker. È positivo, si conferma. Sta facendo benissimo, salvo, non ci sono problemi. Adesso picchi negativi non ne hai più, c'hai picchi positivi e tutto, cioè, tutto va bene. Passava l'occasionale, vabbè, comunque. lasciamo perdere. Ah, a proposito, cosa ti volevo dire? Settimana scorsa, due settimane fa, avevo sentito qualcuno, o anche c'era anche sul giornale, dice che nell'acqua potabile, quella che usiamo noi per cucinare la rubinetta, lui dice che c'era del piombo, è vero? Nel modo più assoluto, stanno scrivendo un sacco di coglionate. Questa è la settimana scorsa, c'erano dei nitriti, ma non era assolutamente roba batteriologica che poteva far male a persone, altrimenti avremmo chiuso gli impianti e non avremmo potabilizzato. Perciò, grandissime stronzate. È un capo, infatti con la paura così via mi sono fornito di bottiglie d'acqua, di qualche cosa per cucinare così via. Infatti poi la chiesa lì dice no, non è così. Vabbè, meglio così, ok, dai, vi lascio momentaneamente che è arrivata gente, magari ci sentiamo più tardi, dai. Va bene Sandro, d'accordo, siamo qua, fra un po' ci andiamo a pompare e poi già rientriamo, non c'è problema. A più tardi se coincide, se no già ci aggiorniamo telefonicamente. Avanti Andò. Va bene, a più tardi se coincide Sandro, se no già ci sentiamo più avanti. Capaloce. Eia. E così. Così e così, certo i giornali ne scrivono stronzate. Sì, ma ci sarebbe da fare veramente una dichiarazione, solo che i miei dirigenti sono tutti col dito nel naso, capito? Perché se avessero dato mandato a me l'avrei fatta io, non a Sardegna, una bella dichiarazione, dove le avrei scritto proprio che sono degli asini totali e che prima di mettere un articolo bisogna accertarsi e avere le analisi in mano prima di scrivere, non scrivere coglionate solo per fare l'articolo, capito? Perché a fare l'articolo ci siamo voluti tutti, quindi per carità ragazzi, che giornale di merda, non ho mai potuto vedere, mai, scrivono tante di quelle coglionate, di quelle cose inutili e poi si permettono di prendere 3-4 pagine di pubblicità anziché parlare veramente di crisi e di indotto allo sfascio. È proprio un giornale di merda, guarda, è il giornale più schifoso che c'è in Sardegna. È proprio vero, ma del padre pure la metto in allarme la cittadina, qualche cosa, per delle stronzate così, per sentirti dire o qualche cosa, poi boh. Ma non è assolutamente vero, perché se fosse così saremmo già tutti a spasso, capito? Perché allora sono veramente degli incompetenti, mi corrisco. A parte il fatto che in tutti gli impianti come Tronco Reale, Monte Agnese, Castelsardo, cioè gli impianti che potabilizzano l'acqua qua a Sassari e soprattutto Pedramaiore, cioè sono due chimici, due periti chimici e due biologi. E più ci sono degli assistenti altri, quindi, che hanno il laboratorio e ogni ora viene fatto il controllo dell'acqua, ogni ora, capite? Sottolineo ogni ora, non ogni giorno, ogni ora. Ogni 15 giorni viene fatto tutto il controllo dell'acqua, sia della greta in ingresso che quella potabilizzata dall'impianto in uscita, con tutti i sistemi di controllo per vedere i batteri che ci sono nell'acqua e tutti i residui di qualsiasi tipo di reagente, quindi permanganato, ferro, ipoclorito, che poi è biossido, manganese, chi più ne ha più ne metta. Perciò sono veramente delle persone, cazzo, che vogliono prese e fucilate, perché pur di fare l'articolo si inventano tantissime stronzate che ne sono assolutamente negative, ma soprattutto sono pericolose per chi legge, capito? Solo quello è il problema. A me non me ne ha fatti nulla perché io ci lavoro nel settore, quindi quando so una cosa del genere sono io il primo a mettere allarme la gente, ma siccome non è assolutamente vero, non prendo neanche quello che scrivo al giornale, sono dei deficienti, ma fatene solo una pagina per coprire l'articolo e per far vedere che qualcuno ha fatto l'articolo e che non si è grattato le palle durante il giorno. Mi sa che è proprio così. Si fanno gli articoli giusto per fare, per tappare un occhio, per non dire che stiamo scaldando la Siria, tutto lì. Però non sono neanche articoli da fare, perché ci sarebbe stata una bella, da fare una bella denuncia, guarda, e chiudere il giornale. Adesso domani ne parlo al mio dirigente di questa cosa, perché sicuramente non l'ha visto neanche il giornale. Non si possono scrivere stanza. Non stavo ascoltando anche su 41, c'è Luca. Nulla, no, nessun problema, stavo solo ascoltando. Ho capito. Va bene. Tu toc, a voi, ti fa posto. Sono capiti. Parlo di già quasi impiccato. Grazie.